a controllare gli atti ed è il parere che non è censurabile l'operato di un assessore, allorché pur di sostenere persone meritevoli che da un punto di vista artistico si impegnano a dare del proprio. E qui anche la parte dove lui dichiara che egli stesso si fa garante nei confronti dei proprietari per case che devono essere affittate. Questo l'ha detto, non penso che ci sia. Cioè. Sì, l'ha detto. Sì, una parte da aggiungere, dove un punto, sì. Dopo il punto che devi aggiungere. Cioè, e che lo stesso. Dopo la parola. Dopo la parola con lei. Dà del proprio. Un periodo da aggiungere dopo che dice impegnano e dà del proprio. E lì già c'è scritto questo. Sì, questo, e che è lo stesso. Dobbiamo aggiungere. Sì. Si fa garante, è quello che ha detto lei, l'ho scritto, nei confronti dei proprietari. Per case che devono essere affittate. Vogliamo essere precisi, lei ha detto così, guarda, perché mi assume anche lo trascritto e ha supporto anche una registrazione, dove dice precisamente testuali parole. Questo non lo. Ma sapete per quante case vi faccio garante per case che devono essere affittate nei confronti dei proprietari? Ma l'ho detto qui e non lo dirò più fuori questo ragionamento. Ma posso mettere quanti, quindi forse proprio lo dobbiamo mettere in alcune casse per quanto, perché è per sì, no, ci mancherebbe, ma poi c'è un'interrogazione in merito. In alcuni casi nei confronti dei proprietari per casi che devono essere affittate. È pervenuto da qui che c'è un punto. No, questo io l'avevo trascritto. Bene, allora poniamo la correzione il verbale del saluto precedente con la correzione che è proposta o raggiunta così come proposta dal consigliere Spada. Chieda conto che si sia tutto chi non lo è si alzi. Scusi, per favore, non ci sono comunicazioni del Presidente, tranne il piacere che ho come Presidente del Consiglio di invitare domani a godere della festa del 1° maggio, che in maniera così gioiosa, attiva, i consiglieri della maggioranza hanno messo in opera, e sarà un momento di gioia, un momento di condivisione, ci sarà il caso comunico, quindi anche con il ripristino delle tradizioni, della bellezza della tradizione proprio Andrea, quindi mi farebbe piacere che fossimo tutti presenti, ringrazio i consiglieri che si sono occupati con la mia consulenza e invito i consiglieri. E in pessimistico consigliere Campenari. No, mi sono dimenticato gli occhiali, non ci sto vedendo completamente. Quindi non leggerà nulla. Il primo miracolo di fare il barriere, c'è un problema. Ma io non vedo il mio. Come comandante della conferenza del capigruppo faccio la proposta al consiglio comunale di prelevare punti 3, 4 e 5 e portare il punto 1 al punto 6. Allora, votiamo per il prelievo dei punti allora del giorno 3, 4 e 5, che è la cosa che si è seduto che non lo è si alzi. Io non sono d'accordo. Sì, ma non, il gruppo non è d'accordo a prelevare praticamente il punto della preda. Siccome era fungeva da capogruppo. Sì, io ho detto, il consiglio. Vabbè, Presidente, allora io vorrei dire che il gruppo che senso ha? Vabbè, il tempo di riferire. Allora, porto a bomba la votazione, anche perché mi si poteva dire. E allora convoco la votazione del prelievo dei numeri 3, 4 e 5 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo che si è seduto fino a dove siamo? Approvato il prelievo. Punto numero 3. Rendiconto di gestione 2014. Argomento numero 3 è stato sottoposto alla votazione della seconda commissione. ordinario di esercizio. Premettiamo subito che è l'ultimo rendiconto che viene approvato sulla base delle vecchie, diciamo, regole contabili, quindi sulla base del cosiddetto 267-2000, perché il prossimo rendiconto seguirà praticamente le regole del 118 del 2011, dove cambia completamente, radicalmente, il modo, diciamo, di concepire e di illustrare i risultati, diciamo, di amministrazione. È totalmente diverso. Noi intanto questa sera dobbiamo discutere tecnicamente, per quanto riguarda la parte mia, il rendiconto con le vecchie regole contabili. Il rendiconto, diciamo, di gestione, come sapete, non è altro che il risultato praticamente dell'attività svolta nel corso dell'esercizio 2014. Quest'anno, nel corso del 2014, abbiamo, è giusto che si sappia, rispettato il patto di stabilità interno e abbiamo chiuso il rendiconto di gestione con un risultato di amministrazione notevole. La novità grossa di quest'anno è che il rendiconto, ho detto, ordinario, quindi la cancellazione dei residui attivi e passivi, che è, diciamo, l'atto principale, diciamo, per cui poi in base al quale si basa tutto il rendiconto, si è avvenuta contestualmente un riaccertamento straordinario. Per questa prima, solo per quest'anno, diciamo, si è trattato di fare questa operazione, diciamo, contestualmente, cioè in vista dell'introduzione del nuovo principio contabile abbiamo operato i capi settori, i responsabili settori, eccetera, abbiamo operato come? Operando per lo stesso, diciamo, residuo, per lo stesso quindi credito o per lo stesso debito, si è discusso, diciamo, se è stato, diciamo, analizzato quella posta sia per quanto riguarda il punto di vista ordinario secondo le vecchie regole e contestualmente il punto di vista straordinario. Cosa significa? Che nel rendiconto ordinario quella posta secondo le vecchie regole viene mantenuta. Il caso degli impegni assunti a fine anno, cosiddetti impegni giuridici, tecnici o da stanziamento, a fine anno, diciamo, tutti i comuni, diciamo, usavano prendere, diciamo, una miriade di impegni di spesa, impegni da stanziamento, e questo secondo le vecchie regole contabili, questi impegni tecnici, era, diciamo così, impossibile effettuare operare questo termine. Con riaccertamento straordinario questa tipologia di operazione non è più possibile, perché possiamo mantenere a residui soltanto quelle obbligazioni giuridiche non solo perfezionate, quindi per le quali conosciamo il fornitore della prestazione d'opera, del servizio, del bene, ma soprattutto si conosce la scadenza dell'obbligazione, quindi il termine per il quale abbiamo si è operato, diciamo, una separazione tra l'ordinario e lo straordinario è stata l'esigibilità del residuo. Nel caso dei crediti volevamo sapere se sono ancora esigibili nel 2014, per quanto riguarda i debiti, erano debiti esigibili, quindi pagabili nel 2014, altrimenti tutto veniva mantenuto nel rendiconto ordinario e automaticamente spostato, reimputato con il rendiconto straordinario. Altrimenti, può essere un altro caso, è mantenuto nel rendiconto ordinario e definitivamente cancellato nel rendiconto straordinario. Questa cosa ha consentito? Ha consentito di applicare finalmente, diciamo, dopo diversi anni di osservare il principio di armonizzazione contabile, cioè dire, i bilanci devono essere ormai armonizzati, cioè lo stesso bilancio deve avere la regione, il comune, la sanità, in modo che l'Unione Europea possa conoscere lo stato effettivo del debito veramente del comparto, diciamo così, dell'ente, del comparto pubblico, diciamo, in generale. Perché fino ad oggi noi abbiamo avuto, mantenendo residui passivi per i quali assunti a fine anno, assunto finale, per i quali non conosciamo il soggetto, non conosciamo la scadenza, non conosciamo, secondo quella vecchia, diciamo così, contabilità, questo era possibile, ma realmente non era un debito, perché il debito sussiste quando c'è il soggetto nei confronti del quale l'ente ha, diciamo, un'obbligazione, quindi quel soggetto che ha effettuato una fornitura, ha effettuato un'opera, sta per effettuare, e c'è quindi una scadenza. Tutti quegli impegni dove magari non c'è, sono queste condizioni, non è un effettivo. Lo stesso discorso dicasi per quanto riguarda i lavori pubblici, dove si è maggiormente puntato. Se il lavoro pubblico praticamente prevede un'opera per 400.000 euro, dove quest'anno dobbiamo spendere soltanto 50.000 per progettazione, piuttosto che non prima impegnavamo tutte 400 e ce li gestivamo a residui passivi. Quindi avevamo in quell'anno, cosa avevamo? Un debito di 400 a fronte di una reale spesa di 50. Però per l'Unione Europea l'ente locale aveva un debito di 400 nel 2014. Cos'è successo questo? Cosa ha portato negli anni questa contabilità? Cosa ha portato i comuni ad operare come tutti i comuni, ad operare in anticipazione di tesoreria, perché se noi oggi dichiariamo il bilancio di entrata di IMU di 100 e automaticamente finanziamo una spesa di 100. E è successo che cosa nell'arco di questi 20 anni? Che la spesa è certa, l'entrata è stata aleatoria. Cioè dire, a fronte di una spesa di 100 fatta, sostenuta, pagata, noi abbiamo avuto un incasso costruente di 30, di 20, a fronte della grossa, diciamo, evasione. E questo si è percorso negli anni, determinando poi il, diciamo, i disavanzi dei comuni, perché noi abbiamo sostenuto spese con somme che non avevamo, e quindi abbiamo subito le cose di anticipazione di tesoreria e di anticipazione di liquidità, come è successo con la Cassa Depositi e Prestiti, che ci ha dato quella somma per far fronte a debiti scaduti, certi liquidi esigibili al 31/12/2013 o 31/12/2012, ma non erano elementi di virtuosità dell'ente, ma questo per tutti i comunitari, perché l'ente dovrebbe operare in equilibrio, quindi dovrebbe rispettare il principio della integrità del bilancio, l'ammontare delle entrate finanzia l'ammontare delle spese. Noi questa sera c'è un rendiconto ordinario, chiudiamo questo vecchio metodo, diciamo, contabile, si chiude perché già il nuovo bilancio, noi dovremmo andare poi al Presidente del Consiglio con due bilanci, il bilancio secondo la vecchia regola autoregolatoria e il nuovo bilancio con funzione conoscitiva, mentre il rendiconto avrà solo questa sera funzione diciamo così, definitiva, chiusa di chiusura della, diciamo, dell'esercizio 2014. Chiudiamo il rendiconto con un risultato di amministrazione grosso, perché abbiamo per forza di cose operato una scelta, cioè le somme derivanti da finanziamento le abbiamo dovute cancellare dal 2014 e spalmare nei 30 anni, come dice il nuovo principio contabile. Quindi questo è determinato un risultato un interessante. E quindi praticamente stasera qual è la novità di quest'anno? Che il 30 aprile, ergo stasera, non c'è stata nessuna proroga, neanche di un giorno, si dovrà operare contestualmente al rendiconto ordinario, che approverà, comunque discuterà il Consiglio, successivamente, nello stesso giornale, e qui voglio dire, non ci sono dubbi, perché il principio contabile l'ha chiarito, nella stessa giornata, non nella prima seduta utile, nella stessa giornata, la Giunta deve discutere e approvare il riaggiornamento straordinario. Dopodiché, io ho ritenuto cosa buona e giusta, che sempre nella stessa giornata, avendo, diciamo, il discorso chiaro, si effettui una mera comunicazione al Consiglio di questa presa d'atto. Di una presa d'atto, al Consiglio di questo, diciamo così, riaccertamento straordinario, perché dovete sapere che la sanzione in caso di mancata delibera del riaccertamento straordinario è stata confermata, forse è lo scioglimento del Consiglio. Cioè, se stasera si approva il rendiconto ordinario e la Giunta non approva, diciamo, l'accertamento straordinario, la sanzione viene combinata con diciamo, lo scioglimento del Consiglio Comunale, nonostante il Consiglio non ha potere, diciamo, sul riaccertamento straordinario, quindi ha solo un potere di presa d'atto, di comunicazione. Quindi ecco dove sta, è stato fatto forse per incentivare le giunte, diciamo, ad approvare velocizzare. Sì, e comunque posso dire che si è stata chiesta a gran voce la, diciamo, la proroga di questo, degli adempimenti che si dovevano svolgere, e non è stata concessa da assolutamente, ancora fino ad oggi è uscita una circolare che il 30 aprile è il giorno utile per approvare entrambe le cose, in mancanza verranno nominati, diciamo, i commissari per questo è quanto. Okay. Grazie dottor Fusso, abbiamo anche il parere favorevole del anche noi, come ringraziamo il lavoro svolto dal revisore dei conti e dal dottore Cuzzo, non vorrei essere di parte, però veramente ha dato un valido supporto durante le commissioni, anche perché il nuovo sistema, il rapporto complesso, anche tutti i nuovi cambiamenti. da, dalla fatturazione, cioè spiega tutte le varie procedure che andremo, avere i fondi che si vanno, hanno fatto degli accertamenti straordinari dei residui, che è stata una cosa a fondo complessa, capire le necessità e quant'altro. Lo ringraziamo questa sera per la sua chiarezza e averci illustrato da questi salienti quello che sarà la nuova votazione, il nuovo modo di approcciarci al bilancio e i tratti salienti anche di questo bilancio, di questo rendiconto di gestione, che altro che non è poi una presa d'atto di quello che è l'attività e la, di programmazione, gli obiettivi e le scelte politiche adoperate dall'amministrazione durante il bilancio di previsione per l'esercizio 2014. Un bilancio di previsione dove già, devo dire, noi abbiamo stesso fatto la nostra valutazione politica e avevamo dato un voto fortemente negativo, anche perché non condividevamo né le scelte. Al nostro avviso è vero che trattasi di un bilancio ingessato, privo di elasticità contabile e quant'altro, però anche in quella sede abbiamo, e ancora ad oggi lo ribattiamo, che è un bilancio a nostro avviso senza, senza alcun intervento degno di nota, dove manca la, una, potremmo dire, programmazione ed iniziativa da parte dell'amministrazione, che a nostro avviso non è stata capace di sintetizzare quella che è la realtà politica e sociale della nostra città, perdendo anche per certi versi un po' di vista quello che è l'obiettivo principale di un'amministrazione, che deve essere il benessere della comunità e quindi lo sviluppo. In merito al bilancio, riteniamo che non, cioè, in un certo senso questo rendiconto riassuma un'attività carente sia dal punto di vista politico, economico e anche dal punto di vista amministrativo. Anche perché da, questi, da quello che ne viene fuori non si è assistito ad un minimo di sviluppo economico, sociale ed ambientale. Invece mi dispiace sottolineare che quello che si è assistito è invece a una pesante tassazione che a forte di un, potremmo dire, prelievo così forzato non vi è stata poi a sua volta un'erogazione qualitativa nei servizi. E inoltre volevo fare una, entrare un attimino nel merito per quanto riguarda proprio questo rendiconto, dato che più volte ho chiesto, lo ribadisco ancora una volta, che per il prossimo consiglio, faccio solo una richiesta formale, venga qui l'energy manager a spiegarci il suo operato, cosa ha svolto e quali sono state insomma le strategie messe in atto, perché da, come dice il sindaco, bisogna sempre partire con i numeri alla mano. Quello che ne viene fuori è che i consumi di energia elettrica, vorrei essere spiegato soprattutto da lui, anche in base all'ultima scelta nel cambiamento della gestione, del gestore di energia elettrica, come i consumi dell'anno 2010 che erano 490, ad oggi, all'anno 2014, c'è stato sempre di più un incremento fino ad arrivare a 971.000 euro. Idem potremmo assistere in un bilancio con le spese legali, che dal 2010 77.000 euro sono arrivati a 126.000 euro, interessi passivi, come diceva, per anticipazione di tesoreria, che da 41.000 euro a 61.000 euro, più potremmo dire anche il grosso che è rappresentato dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e potremmo dire anche qui, vorrei chiedere poi anche in altri aspettiva, per quanto riguarda la storia dell'Aro, quasi tutti i comuni si stanno anche accingendo, vorremmo sapere noi a quanto inizieremo. E per questo proprio, anche poi, proprio in previsione, quello che manca proprio questa attività di programmazione in previsione del nuovo sistema, del nuovo principio di armonizzazione. Qualcuno la scorsa volta infatti diceva che la nostra era semplice, quasi quasi ci etichettava come di una lezione universitaria, non era questa. Perché proprio oggi toccheremo, a mio avviso con mano, quello che comunque abbiamo sempre ribadito, quello per cui ogni volta magari può sembrare pesante, siamo stati qui a dire che bisognava una maggiore qualcosa in più da parte dell'amministrazione, perché ora quello che ne viene fuori è proprio così, il nuovo sistema contabile, saranno questi bilanci che saranno più veritieri, più reali, ci daranno una situazione proprio oggettiva di quello che è lo stato economico del nostro comune. Tanto è vero che il principio su cui filo conduttore, su cui si è basato l'introduzione di questo nuovo sistema, è proprio quello della trasparenza, partecipazione, e quindi anche qui ora bisognerà, i cittadini penso dovranno essere attori comprimari ad andare a illustrare e vedere una maggiore partecipazione. Perché questi bilanci cosa chiedevano? Il nostro era quello di non trovarsi impreparati. Purtroppo ad oggi devo dire quello che ne verrà fuori sarà ancora una volta il frutto della cattiva gestione delle amministrazioni passate, dove oggi, in seconda battuta, proprio ne daremo atto da quello che ne uscirà fuori. Perché quando ci renderemo proprio della incongruità, quando ad oggi chiudiamo ora con un avanzo di 4 milioni, e poi penso ci sarà un... ci sarà qualche spiacevole sorpresa che vedremo in seconda battuta. E questo perché? Perché c'è stata una cattiva gestione, perché i bilanci, con queste potremmo dire disavanzi occulti, si sono portati con questi fatidici impegni, residui e quant'altro, a pareggiare i bilanci con entrate aleatorie e spese certe. Quindi quello che ad oggi si chiede è una maggiore responsabilità, e qui ora verrà fuori quella che è la capacità, la destrezza da parte di un amministratore di trovare soluzioni alternative per far uscire veramente anche questo paese da questa morte e gloria. È vero che trasferimenti dello Stato, però questo era tutto un processo già annunciato. Quante volte in queste sedi abbiamo detto ci sarà una maggiore autonomia, perché siamo in un principio, si introduce quello del federalismo economico. Quindi non possiamo basarci più sui trasferimenti dello Stato, perché è diventato veramente una madre madrigna nei confronti dei comuni. È anche vero che bisogna, da parte degli amministratori, riorganizzare in maniera diversa, poter vedere anche gli uffici. Ora, ad esempio, qui l'ufficio tributi avrà un ruolo principale nel recupero delle evasioni dei crediti, e quindi bisognerà potenziare, bisognerà anche andare a vedere l'efficienza degli uffici, perché questo ora con i nuovi bilanci ne verranno fuori tante situazioni, potremo constatare lo stato di avanzamento lavori. Per questo ad oggi devo dire invece questa amministrazione, a mio avviso, ha risposto in maniera, potremmo dire, assordante, eloquente silenzio, e mi dispiace dirlo, frutto di una cattiva gestione e amministrazione. Pertanto il nostro voto è contrario. Ringrazio. Chi chiede di parlare? Se non ci sono altri interventi, passo alla votazione. Pongo la votazione all'argomento numero 3, che è di conto di gestione anno 2014. Chi è d'accordo che si è seduto, che non lo è, si alzi. Contrario. Contrario. Pongo la votazione giornata comoda. Pongo la votazione, ma immediata esecutività del fatto. Chi è d'accordo che si è seduto, che non è, si alzi. Approvato. Adesso credo che la giunta, così come ha in mente ci ha spiegato già il dottore Puzzo, si debba ritirare per approvare quello che sarà poi l'argomento numero 5. Andiamo adesso all'argomento numero 4, articolo 30, comma 77 bis della legge regionale del 28 gennaio 2014, numero 5. Pronuncio su questo. Allora ce la sospendiamo. Questa non è altro che la ripetizione di ciò che è stato già deliberato l'anno scorso. Cioè quest'anno si ripete la stessa procedura dell'anno scorso. Cioè dire, il contributo per i cosiddetti contrattisti, mentre prima veniva erogato l'assessorato al lavoro, eccetera, quest'anno, l'anno scorso questa parte viene erogato l'assessorato alla funzione pubblica, però sotto forma di compenso, cioè di contributo per compensare gli squilibri finanziari. Ecco, la regione chiede agli enti, voi avanzate su frigo di contributo 100.000 euro, ok? Nel caso in cui noi, la regione non dia questi 100.000 euro, per caso il comune, io dico in maniera semplice, subisce uno squilibrio finanziario, oppure si sa mantenere questi 100.000 con soldi propri? E allora, se i comuni rispondono che non si spaventano dello squilibrio finanziario in mancanza di 600.000, la regione non è alcunché. Ecco, la domanda è, la regione della circolare è abbastanza difficile da interpretare. Oppure dice, ma in percentuale, quindi se il comune potrebbe dire no, non mi serve un 100%, mi serve un 100%, e la regione arriva con la parte. Oppure la regione quest'anno ha chiesto, ci sono state cessazioni di personale, ma è chiaro che era legato alle gestioni dei contrattisti, diciamo. Quindi cosa succede? Quindi significa che cosa? Noi dobbiamo soltanto ripetere, anche per quest'anno, per poter usufruire di questo, tra virgolette, finanziamento, per compensare questo squilibrio, dobbiamo ripetere la stessa procedura, cioè di approvare questa delibera di consiglio, da cui si evince che la mancanza dell'erogazione comporterebbe lo squilibrio finanziario. Grazie, la facoltà di consigliere Russo, credo che anche questo sia stato oggetto del lavoro della vostra commissione. Sì, anche questo punto, sì, è stato la commissione anche noi una presa d'atto, parere favorabile, non è. Prendendo gli altri, non è che sono sbagliato. Va bene. No, ci penso che si va dalla sembra che metta questa la domanda. Apprendiamo no, ma anche perché era già passata il consigliere era ulteriore ancora di più, per di nuovo l'assessorato richiedeva vabbè, una maggiore di nuovo la stessa procedura che già abbiamo portato. Ma è veramente normale che il consigliere sì. Parla perché non. E allora pongo la votazione il 4 articolo 30 con l'assessorato di la legge regionale 28 gennaio 2014 numero 5. Che da colpo avessi seduto che non lo esi pongo alla votazione la immediata eseguibilità dell'atto che da colpo avessi seduto che non lo esi alzi. Chiedo al Consiglio Comunale 5 minuti di sospensione in attesa della delibera di giunta. Spingo note sopra la Giuseppe.